bisogna avere un'azione di tutta la comunità internazionale, subito sanzioni contro una dittatura che si sta comportando in modo brutale, e bisogna anche spiegare a tutti che questa è una delle occasioni in cui la comunità internazionale deve dimostrare che si interviene davvero per la libertà di un popolo, anche quando non ci sono interessi petroliferi in campo.